Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti. Pierluigi Pardo assente ma giustificato. Oggi siamo a Forum Agenti, un luogo che lui conosce bene. Ringraziamo Davide Ricci, che pure lui conosce bene, che è il patron di questa manifestazione che si tiene a Milano, alla vecchia Fiera Campionaria. Platea gremitissima oggi per tutti i convocati in diretta da qui. Abbiamo la solita grande squadra: Andrea Roccabella e Davide Cioggia che sono qui, c'è Elena Ligio, Salvese Falzone che mi sono tirato via dalla redazione, ho lasciato Giorgio De Luca in punizione invece il nostro autore alla redazione centrale. Ciao Pardo. Come va? Molto bene, mi manchi. D'altra parte, sei a Napoli, dove ieri sera hai raccontato di un Napoli che oggi Maurizio Crosetti, che più tardi sarà nostro ospite, ha definito molta panna montata nella quale non è riuscito ad infilare nemmeno un dito. Adesso serve, dopo le due vittorie iniziali abbastanza pirotecniche, serve un punto a Lisbona, allo stadio da Luz, che non è esattamente una passeggiata di salute. Vi facciamo sentire un simpatico scambio di battute ieri sera dopo questo 0-0 tra Sarri e Ciro Ferrara su Mediaset, su uno dei problemi del Napoli, alla voce personalità. La mentalità è chiaro, io penso che te la mentalità forte te la sei costruita dopo la Juventus, probabilmente quando avevi 19 anni eri a Napoli. Non eri ancora un mostro di personalità e di mentalità come quando ne avevi 27-28. Io sono rimasto fino a 27-28, mister, nel Napoli, al 27, fino a 27 anni. E in quegli però anni ho avuto la soddisfazione. Si sta parlando di un fenomeno, Sì, si sta parlando di un fenomeno, intanto non avevi tutta questa personalità quando eri ragazzino. Sì, però io sono rimasto fino a quando ero giocatore e avevo cucito degli scudetti su questa maglia con tale Diego Armando Maradona. Poi però i due l'hanno conclusa tra luce e vino. Non è che si sta parlando di un giocatore di valore. Mister, io la ringrazio, di questi complimenti, perché stasera mi hanno massacrato tra mister Sacchi e Auriemma, praticamente mi hanno girato. Che ti hanno detto? Che eri un giocatore scarso, che eri un giocatore normale. Cioè. Sì, che avevo i piedi di legno, che cioè non ero uno. Sì, oddio, piedi non eri un raffinato, però arrivederci. Da questo a dire che eri un giocatore. Vabbè, Pardo, massacriamo anche noi il povero Ciruzzo, che è stato un grande campione, o diciamo qualcosa su un Napoli che non riesce a cavare il ragno dal buco contro l'ultima forza del girone, già esclusa da ogni cosa in una partita da vincere ad ogni costo. Il Napoli non sta bene, Ragnagno è molto semplice ed è secondo me una difficoltà soprattutto offensiva. È una squadra che chiaramente ha avuto una grande sfortuna, che è quella dell'infortunio di Milik, e questa va riconosciuta come attenuante, però poi nei quasi 50 giorni dall'infortunio non mi pare che siano emersi fattori di crescita o soluzioni diverse. Da questo punto di vista io mi aspettavo qualcosa di più da Sarri, lo dico con rispetto e con stima, perché Sarri lo scorso anno ha fatto cose davvero straordinarie e per me rimane un grande allenatore. Però giusto per chiarire, poi approfondiamo il discorso, ti aspettavi qualcosa di più da che punto di vista? Dal punto di vista della creatività? Dal punto di vista della creatività sicuramente, anche della gestione degli uomini. Tanto chiaramente Gabbiadini delle occasioni le ha perse, però non ne ha avute molte e non è stato troppo aiutato dal punto di vista psicologico. Mi pare che siamo al punto di partenza, siamo ancora alla casella del via del Monopoli per quanto riguarda il discorso della coesistenza del tridente leggero. Secondo me è stata una sottovalutazione in fase di mercato. Il Napoli ha comprato dei grandi giocatori quest'anno, ha comprato centrocampisti a profusione, ha praticamente 5 centrali difensivi, ha comprato Maximovic e Tonelli che non giocano mai, e davanti non si è preoccupata di costruirsi un'alternativa a una prima punta fisica come Milik. Poi ripeto, c'è l'elemento sfiga, diciamolo apertamente, che se non si fosse fatto male Milik, cioè ieri secondo me con un attaccante Sarri la partita la vinceva, Però è pure vero, Luigi, che quanti guardando la partita hanno pensato, io credo il 99,7% hanno pensato, ma dai, con Higuain una palla va dentro, ma anche con Milik una palla va dentro, anche con Milik una palla va dentro. Però nel momento nel quale tu il sostituto non ce l'hai, perché evidentemente non ti sei premunito di comprarlo, perché evidentemente devi dare, magari devi inventarti qualcosa di diverso. Senti, Pierluigi, tra poco torniamo a parlare ovviamente della gara di ieri sera del Napoli, di questa delicata, ormai delicata situazione di classifica, però volevo farti sentire un'altra voce che sarà uno dei temi della giornata. A proposito, convoco ovviamente tutti all'800240024, solito numero verde, 349-238-6666 per i vostri iscritti. C'è stata un'altra dichiarazione ieri sera a Matrix di Berlusconi su questo benedetto closing che sarà il 13 dicembre, sì, ma forse vediamo. È fatta, ci sarà il closing il 13 dicembre, mi ha domandato un signore del pubblico milanista assoluto, ma cosa succede se il closing non ci sarà? Dovrò riprendermi il Milan, con molto piacere, e annuncio che bisognerà cambiare assolutamente strategia. Sarà un Milan tutto italiano e molto molto giovane. Quindi Berlusconi devono strappaglielo dalle unghie il 13 dicembre il Milan. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo a discutere di Napoli e di tutti questi temi. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Cambiare la mentalità, è chiaro che fino a 10 minuti, un quarto d'ora della partita c'era la grande voglia di vincere la partita perché ci avrebbe dato la qualificazione, e dopo è cambiato tutto e questo un po' ha influito, è chiaro. E poi è chiaro che l'obiettivo sarebbe quello di non essere influenzati da niente, da nulla, però è difficile. Quando ti rendi conto una partita per te vincere o pareggiarne è uguale, è difficile avere il sangue agli occhi come quando devi vincere per forza. Sì, alla fine è sembrato che eravamo un po' stanchi, però sicuramente non era solito Napoli che abbiamo visto le ultime partite. Un peccato perché con vittoria era più semplice, però siamo ancora primi nel girone e ce l'andiamo a giocare a Lisbona. Allora, secondo me oggi non è il caso di essere buonisti con il Napoli e con Sarri, nemmeno quando cerca scuse nello strano 3-3 del Besiktas con il Benfica, partita che si era giocata prima. Il Napoli ha messo a repentaglio la sua qualificazione alla Champions League con una brutta partita, con la un remake degli ultimi film che abbiamo visto del Napoli, e quindi secondo me oggi non è il caso per il Napoli di accampare scuse. C'è Pierluigi Pardo naturalmente che ieri sera l'ha commentata per Mediaset Premium, ma ci sono anche Pino Taglialatera che saluto e Maurizio De Giovanni. Buongiorno a entrambi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Pino, tu vuoi fare l'avvocato difensore oppure no? No, a me di solito io il Napoli non riesco a criticarlo per un semplice motivo, che sono troppo tifoso, e poi stimo veramente tanto Sarri, e magari quelle sue tra virgolette giustificazioni possono anche essere delle verità o mezze verità, quindi sinceramente lui, quello che ha in mano lo spogliatoio, sa benissimo cosa deve dire, probabilmente si è preso lui tutta la responsabilità, ma in campo ci vanno i calciatori. Io credo che in questo momento i calciatori dovrebbero ringraziare l'allenatore, fare l'ultima partita con il Benfica veramente con il sangue agli occhi e portare questa qualificazione a casa. Ho capito, ma vai allo stadio da Lutz invece di prendertela comodamente in casa con la Dinamo Kiev, che non ha nulla da dire, che è il materasso del girone, devi andare a Lisbona quello, con il Benfica quello, a soffrire. In questo ti dico, Pino, io sono d'accordo. Però io ti dico che in campo ci andiamo noi calciatori. Sì, finché vuoi, però. Siamo noi quelli che facciamo, noi, una volta io ci chiamo i calciatori, sono quelli che fanno la differenza quando vanno in campo, la mentalità la devono. La devono avere loro, io penso che calciatore lo è per tutta la vita. Pino non veniva mai criticato perché questi qua andavano in campo e bruciavano veramente l'erba. Oggi bruciavano l'erba e avevano uno che bruciava le reti, però sì, ti dico, io sì, sono d'accordo con non perché è mio amico, con Pierluigi Pardo quando dice da Sarri mi aspettavo in questo momento qualcosa di più. No, Pier, chiediamolo a Maurizio De Giovanni, glielo chiedi tu? Riassumi tu il discorso che hai fatto prima? Il Napoli ha avuto la sfiga e l'infortunio di Milik, ha sottovalutato il ruolo perché ha comprato centrocampisti e difensori a profusione, alcuni dei quali desaparecido, tipo Rog, e non ha preso un cambio, una punta centrale, evidentemente si fidava di Gabbiadini, e poi dopo, chiaramente per la legge di Marti, c'è stato l'infortunio di Milik. Da quel momento in poi, però, io da un grande allenatore come Sarri mi aspettavo che riuscisse a trovare delle contromisure. Questa è la mia sintesi, non so che ne pensi. Io, innanzitutto, saluto tutti, ovviamente. Io non sono, ieri mi sono veramente arrabbiato. Mi sono arrabbiato ancora di più forte a sentire le parole di Sarri nel dopopartita, capite, la partita del Napoli. Il Napoli è una squadra in questo momento gravemente incompleta e ci sono delle colpe. Perché quando tu tutti la splendida Atalanta che stiamo vedendo a tre prime punte ne gioca una sola, sono Petagna, Biniglia e Paloschi, no? Tutte le squadre hanno ricambi adeguati in un ruolo così particolare come quello della prima punta, e il Napoli ha scelto di non avere questo ricambio. La clamorosa, quindi la responsabilità è di De Laurentiis, per fare nomi e cognomi della società? Non lo so, l'evidente fallimento io credo che sia anche stato in chi ha valutato, e non può essere stato De Laurentiis, che Gabbiadini potesse essere un adeguato sostituto di Milik, no? E anche quello è stato un errore di una gravità estrema, perché Gabbiadini è evidentemente inadeguato, clamorosamente inadeguato. Al di là di questo, tu non puoi poi dire che il Napoli ha giocato come ha giocato senza minimamente provare, cioè senza produrre una forza penetrativa adeguata. Il Napoli arriva mille volte a partita al tiro, arriva mille volte a mille occasioni a partita, ma fa gol assolutamente col contagoccio. Questo è una cosa, la pericolosità è una cosa e il tiro in porta sono un'altra. Il Napoli non è mai stato realmente pericoloso se non col tiro di Amsic, che è stato effettivamente molto bello e parato, ma sono iniziative individuali. Non vediamo un incrocio tra le punte, non vediamo un cambio di posto, non vediamo, tutti quanti cominciano a giocare la partita e non si muovono da dove sono per tutta la partita. È un atteggiamento tatticamente leggibilissimo, e Pino, che è uno straordinario allenatore, oltre a essere un grande ex calciatore, lo sa e lo vede, non c'è una imprevedibilità, non c'è nulla. Viene tutto affidato alle iniziative individuali, vedere Mertens schiacciato fra due difensori, nonostante lo straordinario momento di forma che dimostra il nazionale, è veramente una tristezza, vedere Caglion che continua a tagliare, sistematicamente ignorato dai compagni che non lo vedono perché ha due difensori davanti, vedere Insigne che si desservisce nella solita finta, nel solito rientro sul piede destro, nel solito tiro puntualmente inefficace, veramente molto malinconico. Io credo che i tifosi abbiano il pieno diritto, finita la partita, e sottolineo finita la partita, di schiare. Io sono in questa situazione sono d'accordo. È chiaro che l'avvocato difensore, perché ha scelto questo ruolo, Pino taglia la tela, ha diversi argomenti cui rispondere a Maurizio De Giovanni, no? C'è chi sottolinea che il Napoli ha solo due punti in meno di Milan e Roma, va bene, ma è sesto in classifica ed è incerto, è in bilico nel passaggio del turno. Ma d'altronde, come avete anche detto prima, la sfortuna del Napoli, l'ha detto anche Pierluigi, è stato l'infortunio di Milik, e la società credo si sia fatta trovare impreparata per un'evenienza del genere. Io non darei poi tutte le colpe a Sarri, sappiamo benissimo i problemi che ha avuto Rea, i problemi che ha avuto Mazzarri, i problemi che ha avuto Benitez, e al secondo anno sta avendo anche qualche problema Sarri, quindi non credo che tutti questi allenatori siano degli incapaci, e credo che ci sia qualcos'altro di cui discutere. Però ecco, nella prestazione di ieri io punto il dito sempre su quelli che vanno in campo, perché se quando giochi una competizione così bella, fantastica come la Champions League, quando è in campo l'altra squadra ha pareggiato il tuo girone, ma tu devi andare in campo e devi fare la partita, perché Sarri prepara la partita, prepara la partita come l'ha preparata anche l'anno scorso. Quindi questo non è che è cambiato qualcosa diciamo nell'insegnamento di Sarri nei confronti dei calciatori. Però l'anno scorso era l'anno scorso sì, comunque era un'altra squadra, avevi la certezza di che hai trovato per strada di uno che te la picchiava dentro tutte le volte. Io saluto Pino Taglialatina e Maurizio De Giovanni, li ringrazio. Grazie, sentiamo presto, perché il tema Napoli comunque rimane caldo. E voglio chiedere un'ultima cosa a Pierluigi Pardo, che ha commentato la partita, e voglio la sua impressione dalla tribuna stampa e dal vivo. È un Napoli in difficoltà fisica, perché ricordiamo che quest'anno anche c'è stato un cambio dello staff del preparatore atletici rispetto a quello che c'era fin dai tempi di Mazzarri. È un Napoli in difficoltà fisica? Secondo me è un Napoli che va un po' in difficoltà fisica, anche perché Sarri fa poco turnover, quasi zero turnover. Sarri va a periodi, l'abbiamo visto, no? Cioè ha una fase, c'è stata una fase Giorginio all'inizio della stagione, poi improvvisamente Diawara ha giocato qualche minuto contro il Besiktas, quindi parliamo di mese fa, per la prima volta si è visto Diawara, che sembrava un oggetto misterioso, è piaciuto, adesso gioca sempre Diawara, non gioca più Jorginho, cioè è così. Questo secondo me è un altro elemento sul quale Sarri qualcosa secondo me deve migliorare. Poi mi dispiace dirlo perché lo stimo tanto, però secondo me il turnover non è che Allegri fa turnover perché gli piace farlo, gli piace rinunciare qualche volta a Higuain o qualche volta a Dybala quando ancora era disponibile, ma lo fa perché evidentemente sa che la stagione è molto lunga e che i giocatori non possono essere logorati. La sensazione in questo momento è quella di giocatori un po' spremuti, qualche giocatore un po' spremuto, però questo secondo me ha ragione Sarri, ci sono dei saliscendi fisici che riguardano i singoli o che riguardano la squadra, e quindi da questo punto di vista magari le cose miglioreranno. La partita di Lisbona è una delle poche buone notizie, comunque ha due risultati, quindi ha un tipo di contesto però tattico, devi andare che comunque a fare il risultato Napoli. Là però devi andare a fare risultato allo stadio Danuzza, è anche vero che il Giustica ti deve attaccare, puoi trovare degli spazi, cioè il problema che so oggi Napoli se l'ha difesa schierata, no? Se l'ha quando deve fare, quando deve imporre il proprio gioco di fronte a squadre che si difendono, quando magari viene attaccato può, come è successo anche ieri, nei primi minuti la Dinamo Kiev ha commesso degli errori secondo me proprio di sottovalutazione, si è buttata avanti e sono nate due o tre situazioni molto interessanti, in particolar modo per Mertens, quasi di contropiede, abbastanza paradossale, no? In una partita che gioca in casa contro l'ultima del girone. Certamente. Lì Napoli va meglio sicuramente, il problema grosso è quando deve fare la partita. Insomma, speriamo, ha da passare nuttata, questa è la sostanza. Ma sicuro, in questo momento, ma hai detto anche del primo tempo di Udine che ti è piaciuto zero, che partita che pure hai commentato tre giorni fa, e dunque a nuttata ancora non è passata. Ci fermiamo per la borsa, torniamo. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Oggi diretta da Forum Agenti, Fiera Campionaria di Milano. Se volete venirci a trovare, siamo qui. Ci trovate, seguite la linea H fino in fondo. Venite ad ascoltare tutti i convocati in diretta. Pierluigi Pardo in collegamento da Napoli, dove ieri sera ha raccontato questa partita di cui stiamo parlando. Tra poco parleremo anche di Juventus, di closing del Milan, di Berlusconi e di altre voci. Ma intanto, Walter e Luigi. Buongiorno, Walter. Buongiorno, grazie per la convocazione, come dite voi. Senta, io vorrei parlare un attimo di questa vicenda del Milan. Sì. Io non vorrei che, come è successo per Mediaset Premium, no? Che doveva essere comprata dai francesi, che poi hanno lasciato e adesso c'è una disputa giudiziaria, così mi sembra. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ecco, seconda cosa, per caso ho seguito lunedì, adesso non mi ricordo, lunedì o martedì, su Tele Lombardia, c'era lì la gente che è sempre di Tele Lombardia, che parlavano di questo closing, e in questo momento c'è di mezzo lo Stato cinese. Sì. Lo Stato cinese, lo sappiamo, è in mano al Partito Comunista Cinese, no? Sì, dunque? Dunque, il Milan ai comunisti. Berlusconi dice che il 13, se non c'è il closing, lui riprende il Milan, è perché molto probabilmente ci sono qualche problema a tirare fuori altri soldi per prendere il Milan. Intanto questi qua hanno già tirato fuori 100 milioni, quindi hanno già versato caparra, quindi non credo che vogliano perderli così a cuor leggero. Di Pier, certo. No, secondo me è che Berlusconi ha una sua parte irrazionale, sentimentale, se vuoi anche un po' scaramantica. Per cui se uno gli fa la domanda sul Milan, lui forse vuole, in fondo spera sempre di non venderlo. Quello che è successo l'altro giorno, fra l'altro al derby, secondo me è stato abbastanza importante, perché secondo me si è reso conto che nonostante i risultati degli ultimi anni non siano stati all'altezza, negli ultimi anni certamente il Milan gli abbia anche riservato qualche patema, però insomma 30 anni non si dimenticano, il rapporto con i tifosi rimane un rapporto straordinario, come è giusto che sia, ovviamente, perché Berlusconi è stato un grandissimo presidente, ha vinto tantissimo, quindi su questo non c'è da discutere. E probabilmente in cuor suo dice sì, vabbè, divento più ricco, è una cosa che razionalmente vale la pena fare, però poi sai, insomma, si vive anche per star bene, per essere felici, quindi forse questa componente qui ce l'ha, la sua parte razionale sicuramente è favorevole al closing, è vero che lo sta sostenendo ed è un tipo di situazione nella quale comunque anche lui è stato presente e protagonista, ma c'è una componente irrazionale che fa sì che se come dicevamo prima, un tifoso del Milan in uno studio televisivo gli dice ma presidente non lasci, lui gli dice vediamo, perché proprio non ce la fa a dire addio, ma questo no, aspetto io non trovo romantico, no, non ci vedo. Poi è stata la proposta dell'altro giorno è stata se vuoi abbastanza comica, no? Abbastanza curiosa, cioè mi hanno proposto di fare vicepresidente, va bene, lo faccio se però decido tutto io, il mercato e magari anche la formazione. Ciao Maurizio Crosetti, ciao Mau. Eccoci, sì, buongiorno, sì, in effetti è un po' bizzarro, ma lo sa anche lui che non può andare così, perché chi mette i soldi normalmente poi vuol comandare, a meno che faccia comandare Toir, perché c'è solo un'eccezione a questa regola, però sì, parte sì, gli persino all'Inter col 30% in uscita comando io. Esatto, però no, in realtà non si può, comanda chi mette il grano, e il signore, l'imperatore di tutti i grani non può non saperlo. Certo. Senti Maurizio, tu hai scritto, ti ho citato prima perché stavamo parlando con Pardo, con Taglialatela e con Maurizio De Giovanni della partita del Napoli ieri sera, hai scritto, ha fatto un sacco di panna montata ma non è riuscito ad infilarci il dito, ti ho citato. Beh sì, in effetti l'impressione era un po' quella, per giocare giocano anche, però poi se non tiri, se non realizzi, insomma su quell'altra ghiacciante metafora che si tira sempre fuori, quella dei preliminari, che sono una bella cosa, però poi insomma un bel momento nella vita bisogna anche concludere, no? E il Napoli è una squadra di senza Higuain, ricchi e su cose preliminari, poi però quando è ora va su YouPorn, insomma, vabbè. Sì. un Crosetti scatenato, Pardo. È scatenato. Un Crosetti scatenato. È questo, comunque è questo. Insomma, cioè non si può dire che il Napoli non abbia fatto produzione offensiva o non abbia avuto una prevalenza territoriale, come si diceva una volta. E non è la prima volta che succede, perché ricordo la discussione fra Sarri e Simone Inzaghi alla fine di Napoli-Lazio, ed è assolutamente quello il tema. Cioè, anche in quella circostanza il Napoli, se guardiamo i numeri, le statistiche, ha avuto più possesso palla, più tiri, però il calcio non è solo quantitativo, il calcio è qualitativo e la percezione allora questo mi sembra un paradosso interessante che oggi Crosetti, non so quanto volutamente, sottolinea a proposito di Juventus e Napoli. Allora, sulla Juventus si rovesciano una montagna di critiche da parte delle vedove di Conte, perché la Juventus non gioca male. Oggi tu scrivi che deve fare di più. È l'unica squadra in Europa che è prima in classifica, se non sbaglio, vado a memoria, in campionato e nel suo girone di Champions. La bellezza arriverà, i preliminari magari ci saranno, intanto va in buca tutte le volte. Quella consuma, eh? Io non vanno su YouPorn, la Juve non ha bisogno proprio. Ha proprio no, una la grande Juventus, virilità no. sportiva continua, proprio H24, sempre arrapata. No, io credo che al di là di questa terrificante metafora che giuro adesso si chiude e finisce qua, la Juve vive il paradosso di essere sempre desiderata più di quanto, che è già moltissimo, le riesca a fare, ma è ingeneroso questo, perché se è vero, ed è vero, che c'è ancora una mancanza di compiutezza, di rotondità e di perfezione, e ci mancherebbe altro, ma non soltanto a Siviglia dove mancavano quattro titolari, in generale questa è una squadra che userà sicuramente, conoscendo anche le abitudini di Allegri, questi mesi da qui agli ottavi di Champions per migliorare intanto i meccanismi tra Dybala e Higuain, tra l'altro erano anche fuori l'altra sera, per assestare un centrocampo che ha Marchisio in realtà disponibile soltanto da 2-3 settimane, per vedere se in difesa tornano e come quando Chiellini è già tornato, Barzagli, insomma tutte cose che possono soltanto rendere la Juve migliore e probabilmente anche più bella, per soddisfare anche il dibattito sull'estetica, però poi in definitiva se da bruttarella imperfetta, e prima in Champions e prima in Italia, arrangiandosi un po', avendo anche sbagliato qualche partita, avendone perse due in campionato, giocate due e mezza male in Champions, le due con Lione e poi l'andata col Siviglia, e però se nonostante tutto questo sta lì, quando farà qualcosa di più dove sarà? Appunto, ed è questo il grande dibattito, secondo me, perché da un lato abbiamo il Napoli, appunto, che è bravissimo nei preliminari, non riesce a concludere, e una Juventus che e ne stiamo parlando, discutendo, cercando di trovare una soluzione, un'idea, un'alternativa, c'è qualche critica a Sarri, e dall'altra parte Allegri, che è perennemente sotto il tiro incrociato dei cecchini. Ripeto, i cecchini a un certo punto diventano anche patetici. Poi, se ci sarà da criticare la Juve sul piano dei risultati, lo faremo sicuramente. Lo faremo sicuramente. Ed è giusto, secondo me, sottolineare il fatto che non è ancora una Juve perfetta, che è una squadra ancora con dei margini di crescita. Secondo me, di fondo, significa dare alla Juve ancora più forza, no? Perché famoso discorso che viene fatto per esempio per Higuain: se non è ancora al 100%, figuriamoci quando sarà al 100%. Quindi a me sembra che la Juve abbia dei grossi margini di crescita. Certamente la qualità del gioco a livello europeo ad oggi potrebbe non bastare, cioè se la Juve arriva così a marzo, aprile, alle sfide con le grandissime d'Europa, rischia che questo gioco non basti. Però mancano mesi, e fino a questo momento il bilancio della stagione è clamoroso. Con Birindelli ieri diceva che la Juventus è al 40-50%, lo stesso appunto. Crosetti oggi sottolineava come è forse la squadra che tra le big d'Europa che ha i maggiori margini di crescita. Vi chiedo un istante di pazienza, poi voglio uno spunto di cronaca odierna da Crosetti, che si trova in un luogo particolare, poi lo salutiamo perché, come capirete, ha da fare traffico. Tutti convocati. I love this game. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Tutti convocati. Dunque, ecco che torniamo, 800240024, il vostro numero verde in diretta da Forum Agenti, Fiera Vecchia, Fiera Campionaria di Milano. Maurizio Crosetti, dove sei oggi inviato per Repubblica? In questo momento sono in Valle Tanaro, per la precisione a Nucetto, uno dei borghi in questa provincia cuneese, purtroppo vittime di questa nuova alluvione, che per fortuna al momento non ha avuto vittime, ma che sta dividendo, staccando i due paesi, allagando case, cantine, scavalcando ponti, l'acqua si muove a una velocità impressionante, il rombo, l'energia, la forza di quest'acqua limacciosa fanno davvero paura. Ci siamo spinti fino a Garessio questa mattina e il paese è totalmente isolato, la strada è bloccata, stanno evacuando molte famiglie, la stessa cosa vale per le altre frazioni più in basso nella valle, da Bagnasco a Nucetto fino a Ceva. Sono i luoghi dell'alluvione del 1994, sì, sì. E purtroppo la paura è la stessa e l'intensità della pioggia ricorda quella dei temporali estivi, suoni, lampi, il meteo indicherebbe, speriamo, un miglioramento intorno alla, a mezzogiorno di domani, ma insomma è molto lontano il mezzogiorno di domani, c'è una frenesia organizzativa da parte dei vigili del fuoco, della forestale, della protezione civile, la polizia, i carabinieri, i volontari, i comuni, è davvero una mobilitazione generale per un angolo d'Italia, un angolo di Piemonte che purtroppo periodicamente, come è in Liguria la stessa cosa, nel Savonese, nell'Imperiese oggi, a ore fisse quasi, a scadenze fisse, anche per l'incuria di chi non cura fondamentalmente le pulizie delle fonti. Responsabilità e altri discorsi, passare più tardi. Sempre dopo. La cosa, secondo me, la vertigine, la cosa che fa impressione ovviamente è che in un'epoca ipertecnologica di progresso così profondo, così grande, insomma, siamo andati sulla Luna ormai quasi 50 anni fa, e tutto quello che è stato possibile fare per cambiare il mondo negli ultimi 20 anni è stato incredibile, l'accelerazione tecnologica è stata incredibile, però la natura continua ad essere più forte di noi e in certi casi però e soprattutto appunto, ci si pensa dopo, Pierluigi, perché poi arrivano i grandi discorsi sulle responsabilità di questo, di quell'altro, sulle mancate sistemazioni di argini, di pulizia dei letti, dei torrenti, eccetera. Appunto, ci sono delle situazioni che sono assolutamente fuori dal mondo, no? Di cataclismi naturali. Ci sono situazioni invece molto più normali, esatto, e molto più prevedibili. Esatto. E molto più prevedibili e molto più fronteggiabili in maniera normale. La manutenzione ordinaria è il solito discorso. È il discorso che abbiamo fatto, per esempio, in occasione del terremoto. Un paese vicino a un altro, una casa vicino a un'altra, una sta in piedi perché è stata costruita con un certo tipo di criteri e l'altra invece va giù perché questi criteri non sono stati fatti. Esattamente. E poi arrivano i processi. Lasciamo lavorare Maurizio Crosetti, grazie Mau, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio, ciao. Ciao. Andiamo subito e di corsa da Luigi e poi da Pasquale, perché abbiamo ancora meno di 2 minuti. Luigi. Sì, buonasera. Volevo parlare del codice interrotto a questo punto di De Laurentiis, che davanti a un Napoli che era messo bene in Coppa dei Campioni, era messo abbastanza bene in campionato, non ha avuto il coraggio di investire qualcosa per prendere qualche giocatore, qualche attaccante libero, perché il Napoli fino a quel momento, con il gioco di Milik che sulle palle alte era abbastanza forte, liberava sulle fasce i due attaccanti di fascia, il Napoli andava molto bene. Quindi lei avrebbe preso un gettonaro dopo l'infortunio di Milik, tipo Klose, che comunque ha dato l'addio al calcio, si è ritirato, o comunque quello che passava il mercato senza aspettare di arrivare a gennaio. Luigi, la interrompo per dare la parola a Pasquale e la chiusura a Pardo. Pasquale, dica. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Sì, io volevo proprio parlare un attimo anche del Napoli, perché io sono tifoso del Napoli in provincia di Treviso e non è male, credetemi. No. Però volevo dire, ma è possibile che nessuno di voi giornalisti dà una svegliata a Sarri? Perché tutti i tifosi del Napoli si lamentano, manca Higuaín, manca questo, manca quello, ma questo allenatore gioca sempre alla stessa maniera. Mi permetto di dire, visto che abbiamo ancora 20 secondi, l'ha appena detto Pardo, mi sembra che Pardo lo ripeta da tempo. No, lo ripeto da tempo e mi sento anche, stimando molto Sarri e considerandolo anche una bella persona, oltre che un allenatore, mi dispiace pure, però è proprio perché è proprio perché lo stimo, è proprio perché lo stimo, certo, che penso, certo, che certo, si potesse, certo, si dovesse fare qualcosa di più. E sul discorso che faceva l'altro ascoltatore, secondo me c'è stata una sopravvalutazione di Gabbiadini, o comunque, sì, c'è stata una sopravvalutazione, non è che un'incomprensione. Il Napoli non abbia speso soldi, il Napoli, ne ha spesi tanti, e io credo ne spenderà ancora nel mercato di gennaio, però hai ragione, c'è stato l'equivoco di Gabbiadini. Pier, ti devo salutare, ci sentiamo domani. OGR. Assolutamente. Ciao Pierluigi Pardo, noi vi aspettiamo dopo il giornale radio con altri temi, altri argomenti, Inter, Fiorentina, eccetera. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma. Scopri Credi Agricole. Nuova meta, stessa passione. Convocati. Ecco che torniamo, tutti convocati oggi a Forum Agenti, la vecchia fiera campionaria di Milano, perché siamo qui a trasmettere, ma vi aspettiamo anche al telefono, oltre che di persona, 800 24 00 24 come sempre. La Tre Giorni Europea si chiude questa sera tra ultime spiagge come quella dell'Inter, tra una Roma che ora non può più sbagliare, complice anche quello che è successo in campionato, una Fiorentina dalla quale escono voci strane di cui poi parleremo e che poi approfondiremo, e Sassuolo che deve fare risultato a Bilbao. Allora facciamo così, trainino delle voci di Europa League: Spalletti, Sousa, Pioli e Di Francesco. Però l'ho trovata molto dispiaciuta, amareggiata poi per quel risultato lì. Però in questo caso permettimi di fare poi una parentesi, vorrei tranquillizzare i nostri tifosi che non c'è nessun caos dopo la sconfitta di Bergamo. È chiaro che c'è una brutta sconfitta dove la squadra ha fatto vedere di non aver perso questo vizietto, se così si può chiamare, e che naturalmente c'è da lavorare in maniera seria. Riteniamo che il PAOK che è la squadra che ha più esperienza e più maturità nel nostro girone rispetto agli altri avversari, più qualità individuale e collettiva. Purtroppo il suo campionato non le fa permettere giocare, per questo ancora di più la sua motivazione di fare bene, gli ha solo praticamente questa chance che è di vincere contro di noi. Per questo non ci può permettere di pensarci oltre alla partita di domani. Conosciamo bene il Bersheva perché l'abbiamo studiata, perché abbiamo visto la partita di andata contro l'Inter, sappiamo che affronteremo una squadra organizzata, una squadra fisica ma anche con buona qualità tecnica, che sta facendo molto bene in campionato, che in casa in Europa League ha perso solamente con lo Sparta Praga, quindi non ci aspetta un avversario difficile, tosto, e quindi dovremmo essere preparati e soprattutto approcciare bene questa gara dal punto di vista mentale. Noi siamo tutti qua per cercare di fare un'impresa, di portare a casa un risultato importante che ci potrebbe permettere in futuro di andare avanti in Europa League. Questa squadra nell'anno precedente ha vinto spesso anche con un gol di vantaggio, dobbiamo essere più bravi a mantenere certi risultati, però l'unico modo che conosco, parlarne serve poco, magari ci aiuta a migliorare determinati concetti, ma l'allenamento, la predisposizione, la grande umiltà nel lavorare, solo quello ci potrà ridare quello che abbiamo ottenuto in precedenza. Questi erano, nell'ordine, non ricordo, Spalletti, Paolo Sousa sul Pau Saloneco, Pioli in una situazione onestamente molto difficile di classifica dell'Inter dopo i disastri delle prime partite, e Di Francesco che sta pagando, questo può essere un altro tema, pesantemente il campionato, secondo me gli impegni, questo debutto del Sassuolo sul fronte europeo. Francesco, buongiorno, un ascoltatore da Milano, buongiorno. Buongiorno, forse io sarei dovuto intervenire nel segmento precedente, ma va bene lo stesso. Volevo, se è possibile, operare una critica a voi conduttori, un caso strano, mi permetto, perché normalmente normalmente vi stimo tantissimo come commentatori di calcio e del calcio. Non c'è nessun problema. Rispetto al Napoli, non mi sembra di seguire un po' troppo l'onda nei commenti. Provo a spiegarmi. La partita di ieri, è come dice Sarri, era inutile. Era assolutamente inutile rispetto alla qualificazione. Al di là di una possibile sconfitta, la sconfitta avrebbe tolto qualcosa, ma il pareggio e la vittoria no. In una squadra che è chiamata a giocare ogni tre giorni, un calo di tensione in questi sensi ci può stare, cavolo, è innegabile. Allora perché? Sì, ma mi sembrano un po' troppi però i cali di tensione, Francesco. Primo tempo di Udine non è stato un granché, il Napoli non sta giocando in maniera convincente già da un pezzo, non sembra aver risolto i suoi problemi, cosa che abbiamo visto anche ieri sera. È vero che avrebbe comunque dovuto far risultato pur vincendo allo stadio Daluz, ma è altrettanto vero che si è ficcato in questa condizione dopo essere partito benissimo in Champions. Quindi ricordiamo che la Dinamo Kiev è ultima senza alcuna speranza nel girone. E non dimentichiamo nemmeno che ogni vittoria in Champions League frutta un po' di quattrini. Quindi proprio inutile la partita di ieri sera non era, per molte motivazioni che vanno anche al di là della classifica, del risultato e dell'immediato futuro. Io saluto e ringrazio Massimo Caputi, a capo delle pagine sportive del Messaggero. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno. Senti, con te vorrei subito partire dal tema Spalletti, che ha precisato: voglio tranquillizzare tutti, spogliatoio della Roma compatto, tranquillo, non ci si piglia cazzotti, non ci si mettono le mani addosso, non si urla, non si strepita, è tutto vero oppure no? O addirittura potrebbe essere meglio in una situazione come questa avere anche qualche scontro, qualche conflitto, qualche sana critica positiva? Ma no, io credo che la tranquillità non può esserci. E questo, diciamo che Spalletti fa il suo lavoro, il suo mestiere, giustamente cercando di proteggere da eventi esterni la squadra, le situazioni e i giocatori. Però è indubbio che dopo la sconfitta di Bergamo, per come è maturata, per come ha giocato la squadra nel secondo tempo, per le scelte che ha fatto, per un insieme di motivi, è ovvio che ci sia stato del nervosismo. Nervosismo che io credo sia per certi versi anche normale, quindi non capisco perché ci si debba. Cioè, Spalletti, ripeto, fa il suo mestiere, ma forse negare un certo tipo di situazione forse è anche peggio, perché comunque certe situazioni le hanno viste tutti. Ma sì, certo, le hanno viste tutti e può essere anche una via per uscirne. Come no? Perché la sconfitta di Bergamo ha portato con sé delle scorie che la Roma dovrà provare questa sera ad eliminare con il Rapid Vienna, ma con il Victoria Pilsen. Ma sono scorie che esistono e che non possono, anche attraverso le parole dei giocatori, faccio un nome su tutti, Nainggolan, non possono essere ignorate. Un certo malumore, un certo malessere dentro quella squadra, nell'anima di quella squadra, esiste, va curato ed eliminato. Sì, ma anche perché, allora, quello che è accaduto a Bergamo non è un evento singolo o comunque inaspettato, e che per la prima volta, diciamo, ci si trova di fronte a una situazione del genere. Per la Roma questo tipo, la situazione di Bergamo, è una situazione che si è già vista in altre circostanze, anche quest'anno, non c'è bisogno di andare molto, molto lontano. E credo, senza polemiche, senza neanche chissà vedere dietro, senza fare dietrologie, diciamo, credo che, per esempio, non so, Nainggolan che si lamenti perché non aveva capito bene che cosa doveva fare in campo, cioè sono cose che ci sta. Chiunque di noi ha giocato a pallone sa che molte volte, anche a livelli più bassi, succede di non capirsi tra compagni su chi doveva stare in una posizione rispetto a un'altra. Sono cose che non dovrebbero accadere, però possono e accadono spesso. Quello che il secondo tempo di Bergamo è la fotografia di una squadra che cade negli stessi errori e negli stessi vizi. Ogni volta che si alza l'asticella e che è chiamata in qualche maniera a dare prova di personalità e carattere, la Roma, purtroppo per lei, queste occasioni le ha fallite. Sì, questo è vero. Senti, invece, andando sull'ascoltatore di prima che diceva ma non siete un po' troppo critici nei confronti del Napoli? In fondo ieri sera era una partita che non contava nulla ai fini della classifica, perché comunque si è messi in modo tale per cui devi andare a fare almeno un pareggio a Lisbona. Io ho risposto no per alcune ragioni, non so se le hai sentite. No, non le ho sentite, però sono d'accordo con te, cioè nel senso che non è che è vero che il risultato non cambia anche se avesse vinto il Napoli. Io credo però che il Napoli intanto, se vinceva, avrebbe avuto più punti in classifica, che vuol dire poco. Avrebbe comunque dimostrato di essere una squadra capace poi di andare anche a Lisbona ed essere forte di un risultato positivo. E diciamoci la verità, il Napoli dopo due partite aveva 6 punti e aveva la qualificazione in mano. Questa è una squadra, sappiamo, certo, anche i motivi perché ha perso Milik e tutto quello che vuoi, però insomma è una squadra che è calata vistosamente, notevolmente. E quindi ieri non è stata altra che anche in questo caso la fotografia di un momento di difficoltà da parte del Napoli, poi che possa qualificarsi e facciamo tutti il tifo, però che ieri ci si aspettava di più, a me, queste giustificazioni, siamo stati condizionati, cioè io credo che il Napoli ieri dovesse vincere. E dico anche un'altra cosa, che Sarri sta facendo benissimo, ha fatto benissimo, però quando sai fare solo una cosa, secondo me questo è un limite. Questo Napoli oggi non ha determinate giocatori, Milik su tutti, quindi un grande centravanti, un centravanti con certe caratteristiche davanti, io cambierei. Invece Napoli continua a fare sempre il solito gioco come esatto, nulla fosse, esatto, e trova delle difficoltà oggettive. Ed è questo, che, è questo che si può rimproverare con tutto l'affetto e la simpatia a Sarri, perché non è che perché uno è simpatico, è bravo, è un bravissimo tecnico, viene dalla gavetta, insomma, sia esente, immune totalmente da critiche. Invece sull'Inter, questa sera si gioca gli ultimi spiccioli sul tavolo israeliano, gli ultimi spiccioli di chance di qualificazione sul tavolo israeliano a Beersheba. È la prima Euro-Inter di Pioli, anche questo sarà un test importante, al di là di un risultato che ti direi quasi, visto che l'Inter è ultima nella classifica di questo girone, non irresistibile, ed è un pallido eufemismo, con Sparta Praga, Southampton, Hapoel Beersheba, l'Inter ha 3 punti soltanto, molto difficile la qualificazione, però anche qui, al di là del risultato, vale il discorso del Napoli, test importante. Ma sì, non c'è dubbio, cioè, poi alla qualificazione ci si potrà anche pensare dopo in caso di vittoria. Io credo che sia importante proprio la prestazione, esatto, quindi esatto, chiaramente esatto. Attraverso una buona prestazione io credo che può arrivare il successo. Quest'Inter ha bisogno di ritrovarsi, il derby è una partita particolare perché comunque ti dà determinate motivazioni e tutto quanto. Qui invece adesso devi fare te la partita, devi dimostrare che vuoi uscirne fuori, e i primi a voler dimostrare, a dover dimostrare di volerne uscire fuori sono i calciatori. Credo che Pioli insomma ha lavorato troppo poco. Lo conosci bene, che disegno ha in testa Pioli secondo te per l'Inter? Guarda, io credo che Pioli sia un allenatore, l'allenatore giusto in questo momento per l'Inter, perché l'Inter ha bisogno di essere razionale e di essere pratica. Ha una rosa con dei giocatori molto forti ed importanti, male assortiti, e anche a costo di qualche sacrificio doloroso deve mettere in campo una squadra pratica che abbia una logica e che soprattutto possa venire fuori da questo momento. E Pioli secondo me ha questo tipo di caratteristiche. Massimo, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a te, ciao. Un ciao Massimo Caputi. Ciao Massimo Caputi, 800 24 00 24, se volete intervenire. Ma intanto io, prima di passare a qualche spiffero relativo alla Fiorentina e di capire come la pensa Benedetto Ferrara all'ipotesi cessione di Bernardeschi, vorrei fare una rapida digressione sul basket, perché questa sera c'è una grande partita di Eurolega, ospite dell'Armani a Milano, i vice campioni d'Europa del Fenerbahce guidati da Gigi D'Antoni. Sentiamo Jasmine Repesa, coach dell'Armani Milano, cosa ha detto ieri alla vigilia di questa gara. Sicuro avversario stradifficile, un avversario, come hai detto, nominato come uno tra favoriti per vincere Eurolega, un avversario, come ho detto mille volte quest'anno, che ha continuità di lavoro con un grande allenatore, una continuità al lavoro quasi tutta la squadra, ci sono pochi giocatori nuovi, Nanali. Sicuro non sono in una forma straordinaria, ma guarda, per grande squadre non ho visto quasi mai che una grande squadra è già in novembre una forma straordinaria, perché si sa quando loro vogliono avere una forma necessaria, quando vengono giorni per vincere le cose più importanti. Questo era Jasmine Repes, sarà una grande partita di pallacanestro questa sera in un forum tutto esaurito, come ormai consuetudine, questa è quasi non fa più notizia, quella tra l'Armani Milano e appunto il Fenerbahce, vice campione d'Europa. Adesso vorrei fare un salto a Firenze, perché sono preoccupato per i tifosi della Fiorentina. Ieri ci sono state alcune dichiarazioni strane di Paolo Sosa e anche di Borja Valero sul futuro di Bernardeschi, uno dei gioiellini della Viola. La qualità e il suo talento li porterà a averci delle squadre che hanno ambizioni diverse di quella Fiorentina. Io non avevo dubbi su Bernardeschi in assoluto, l'ho visto giocare molto bene fin dal primo momento che è arrivato in prima squadra, ora sta avendo più continuità, sta facendo anche più gol, è per noi importantissimo e speriamo che continui così e spero che diventi anche un grandissimo giocatore di quelli top. Allora, Bernardeschi via da Firenze, giocatore di qualità, magari avrà un altro palcoscenico. Io vi devo confessare che, allora, siamo a Forum Agenti a Milano, Fiera Campionare, trasmettiamo in esterno, eccetera. C'è un simpatico signore di Firenze di fronte a me che è venuto qui mentre parlava, vi facevamo sentire la voce di Paolo Sosa e mi ha detto: non sono voci strane, poi vi spiego perché. Adesso tra poco lo invito qui e gli faccio spiegare perché ai microfoni. Quindi facciamo anche gli ascoltatori direttamente da qua. Intanto saluto Benedetto Ferrara. Ciao Benedetto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sono voci strane? Sono parole sibilline di queste di Paolo Sosa? No, è Paolo Sosa, è fatto così. È un sottile e poetico provocatore. Lui dice questo, come ha detto in passato altre cose, sa di suscitare, di dispettire la proprietà, dicendo così, perché è chiaro, tutti sanno che la Fiorentina non è un super top club, no? Però esiste anche l'orgoglio di chi gli dà lo stipendio, che comunque pensa che comunque certe decisioni spettano a loro eventualmente, non all'allenatore, e soprattutto pensano che se ti dà uno stipendio tu hai diritto di dire quello che pensi. E tra l'altro molti tifosi pensano quello che ha detto Sosa. Il discorso è che certe cose è bene dirsele nelle stanze, insomma, nel senso che comunque la battuta di Sosa non richiesta, tra l'altro in un momento in cui la Fiorentina sta ritrovando gioco, risultati, appunto non c'è bisogno, diciamo, di dopo tanta malinconia all'inizio di questa stagione. Si stava ritrovando comunque il gioco, risultati alla vigilia di una partita d'Europa League, quella che vale per prendere, diciamo, il giro per il passaggio ai sedicesimi, pochi giorni prima di una sfida di Monday Night a San Siro. Insomma, che senso ha dire quello che ha detto Sosa? È quello che domando io. Senso, cioè... se vuoi, io l'unica cosa che ti posso dire è che la domanda che si fanno tutti è una, è perché la premessa è che Sosa e la proprietà hanno avuto un momento di scontro l'anno scorso, no? Dopo il mercato di gennaio, la Fiorentina... Sì, e questo lo sappiamo tutti, e da lì si è rotto qualcosa. E uno spera che comunque, diciamo, l'idea anche mia è quella che Paolo Sosa avrebbe voluto andare via, e che questo a fine stagione, e che la Fiorentina gliela praticamente ha deciso invece di tenerlo. E lui questa cosa evidentemente non l'ha digerita molto bene, e questa cosa ha influenzato anche l'inizio di questa stagione. Lui stesso aveva parlato di cali di tensione, non so se ricorderai, che aveva avuto anche lui. ha parlato ma del sogno. Ma anche insieme l'abbiamo sottolineato molte volte, cioè secondo me l'errore capitale di una squadra è confermare un allenatore sotto condizione. Ma io qui ho un simpatico ascoltatore, tuo conterraneo di Firenze, si chiama? Stefano, buonasera. Stefano, che prima è venuto qui e mi ha detto non sono strane queste voci su Bernardeschi, mi spiega perché? No, non sono strane per un semplice motivo, fanno pari con le dichiarazioni lasciate a suo tempo da Montella e da Prandelli in tempi non sospetti. Nell'era della Valle i soli ad essere allineati e coperti al progetto, fra virgolette, dei signori marchigiani è quello di Mihajlovic, allineato e coperto ai mercati almeno di Fiorentina CF. Mica male, lasciamo rispondere a Benedetto Ferrara. No, allora io risponderò con una provocazione che vorrei fosse presa come tale. Cioè, sembrerebbe dai movimenti mediatici di Sosa, che è uno molto abile in questo, e che anche un suo addetto alla comunicazione personale, lui non si avvale di quelli della Fiorentina, lui sul contratto ha un uomo che gli segue tutta la comunicazione, come Mourinho. E, esatto, e, ma quello è il suo modello, diciamo. Lui sembra che abbia studiato i precedenti, quelli che citava anche, i precedenti che hanno portato la proprietà a cacciare gli allenatori suddetti. I discorsi che fece a suo tempo sul progetto, appunto, Montella e Prandelli in maniera diversa. Prandelli che fu accusato di andare a cena con Bettega, Montella che fu accusato di non credere nel progetto, e nel famoso progetto, fra virgolette, ovviamente, perché oramai è diventata una battuta. Ma e sembrerebbe paradossalmente che Sosa, dal punto di vista della sua narrazione, cioè in qualche modo cerca di ripetere queste cose per vedere se lo buttano fuori. Ovviamente di lo stesso copione per vedere se trova una via d'uscita. Esatto. Benedetto, ne parliamo, è un argomento molto interessante, ma ho finito il tempo, quindi ci torniamo senz'altro un'altra volta, perché secondo me sarà uno degli argomenti più sfiziosi di questa parte dell'anno. Ringrazio Benedetto Ferrara, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito qui a Forum Agenti, ringrazio Andrea Roccabella in regia, immagini insieme a Gianmarco Ferronato nella regia centrale di Milano, dove c'è anche Giorgio De Luca, il nostro autore, Davide Cioce, Elena Ligios, Alvise Falzone che è qui vicino a me dalla redazione, e con i programmi di Radio 24 ci ritroviamo con altri programmi di Radio 24 sempre qui a Forum Agenti. Ciao a tutti, ci vediamo domani, enjoy.